spero di dare alle forze armate la possibilità di trasmettere ancora di più i valori che rappresentano alle giovani generazioni. I valori sono quelli importanti dell'amore per la patria, della democrazia, dell'indipendenza della nazione, della sicurezza internazionale. Se riusciamo a far sì che i giovani mutuino dalle forze armate questi, un po' di questi valori, avremo fatto un ottimo servizio.